Siete impagabili in quanto a disonestà intellettuale lì a Radio 24, poi Milan è il capo. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Buongiorno cari ascoltatori dal capo dei disonesti intellettualmente parlando, ci siamo per una nuova puntata di... Eccoci. Una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo qua in diretta su Radio 24. Ebbene sì, con Laura Faggini oggi è con noi in regia lì insieme al nostro Alpino, il nostro Alpino Peter e poi la nostra redazione, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, ci siamo divisi ma uniti, io qui dalla ridotta di Viale Monza, in diretta anche su Facebook, video, Leonardo Manera, chi lo sa, alle 9:30, vedremo. Vedremo, forse non è il verbo da utilizzare al futuro. Scopriremo, questo sì. Allora, ci siamo, 800 24 00 24 è il numero per chiamarci. Volete anche mandarci messaggi WhatsApp o SMS 349 238 6666. Siamo qui, vai Alpino, perché oggi parliamo di tante tematiche, a cominciare dalla scuola. Enthusiasm about the future. La scuola, tra poco avremo il capo, colui che ha presieduto la commissione al Ministero dell'Istruzione per il rilancio della scuola, il professor Patrizio Bianchi, ma andiamo con ordine perché, allora, prima, vabbè, ma avete sentito anche adesso Vanzina, da Simone Spezia a Maria Latella, io non so più cosa dire di questo dibattito che come al solito è degenerato in una follia, non vorrei dire collettiva, ma non è collettiva fortunatamente, ma collettiva di coloro che sono in piazza a gettare le statue per terra, ma anche alcune aziende che sinceramente prendono delle decisioni che mi lasciano stupefatto. Parlo di questo conformismo che è uno dei veri mali moderni, secondo me, e che ha preso un po' la mano di alcuni. Oggi dovete leggere tutti Pierluigi Battista in prima pagina del Corriere della Sera, l'ossessione di rendere puro il passato. Bene, sappiate, scrive Battista, c'è poco da sorridere. Sembra quasi uno scherzo, una parodia, tanto è grottesca la notizia. Un'azienda svizzera ha deliberato la rimozione degli scaffali dei cioccolatini Moretti, detti anche testa di moro. Eh? La nostra Elisabetta Fusconi lo saprà, ne sarà ghiotta, va alla Migros probabilmente. La Migros non troverà più i Moretti, testa di moro, perché sono pericolosi veicoli di razzismo strisciante, evidentemente, testa di moro. Ma poi c'è questa cosa, io non ci volevo credere, invece sono andato a approfondire, i canali della Disney, la Disney, quella che fa i cartoni per i nostri bambini, vogliono adesso mandare in onda Risto Gatti o Lilli e il Vagabondo con una scheda: questo programma potrebbe contenere rappresentazioni culturali ormai superate. Cioè, una dicitura di questo tipo vogliono mettere alla Disney. Ma io non so se, cioè, vi rendete conto, ma dove andiamo di questo passo? E infatti, scrive Pierluigi Battista, c'è poco da sorridere, perché un po' di anni fa avremmo liquidato come una botade la decisione di alcune università americane di sradicare dai piani di studio opere scorrette di Shakespeare o le baccanti di Euripide. E invece è stato fatto. O di bloccare la Sorbona la messa in scena delle supplici di Eschilo, fatto anche questo. O di rimuovere da un'università inglese una targa coi versi di Kipling, autore di un libro molto pericoloso come Kim e cantore di crimini culturali, Il fardello dell'uomo bianco, fatto. Avremmo considerato impossibile l'accusa a Dante Alighieri di essere islamofobo, e invece anche questa è stata fatta. Insomma, scrive Battista, gli aggressivi funzionari della neolingua già analizzata da Orwell definiscono pudicamente ricontestualizzazione questa demolizione e riscrittura delle opere del passato per stravolgere ed estirpare quella che i solerti esecutori della Disney chiamano rappresentazioni culturali ormai superate. Siamo a questa follia, io credo, follia. Un conto è chiedersi, è interrogarsi come sulla questione di Indro Montanelli, della celeberrima ormai intervista rielaborata e riproposta di quando lui in guerra comprò una bambina di 12 anni, una ragazzina di 12 anni. Pratica sicuramente sbagliata, aberrante, vista alla luce di oggi, ma anche di ieri probabilmente. Però da qui poi parte tutta una rivisitazione culturale per cui si arriva a togliere i cioccolatini testa di moro dagli scaffali di un supermercato. Quando poi è così, vuol dire che la follia, un germe piccolo di follia, ha preso le mani di qualcuno e si è insinuato nelle menti di qualcuno. E quando poi si insinua il germe della follia, seppur piccolo, può crescere. Allora, però io oggi voglio parlare un po' di scuola, anche perché ci sono tante notizie riguardanti la scuola oggi sui giornali. Devo dire che però voglio partire con il mio ospite che saluto da una notizia che invece sui giornali ho cercato ma non ho trovato. Una mancanza, insomma, ma voglio spiegare tutto. Prima saluto il professor Patrizio Bianchi, che insegna economia e politica industriale a Ferrara, è stato anche rettore in quell'università e ha coordinato di recente il comitato degli esperti del Ministero dell'Istruzione per il rilancio della scuola. Professor Bianchi, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a tutti, alzati, ben alzati a tutti. Eccoci. Ben alzati a tutti, questa è. Allora io professore, ecco, non ho trovato, leggendo sugli stati generali che partono, Conte, ho visto tutti i dibattiti, infrastrutture, edilizia, ambiente, pagamenti elettronici, riforme, ecco il digital divide, magari su questo, sulla scuola ci sarà. Spero che si parli anche un po' di scuola, di come no, di mettere la scuola al centro no, di questa ripartenza. Mi sembra giustissima questa riflessione. Ma lo faranno? Lo faranno secondo lei? Guardi, lo domanderemo al Presidente Conte. Io le devo dire questo, noi stiamo lavorando, abbiamo lavorato, come lei sa, abbiamo consegnato il 27 di maggio un primo rapporto sull'apertura di settembre, ma io credo che il tema sia esattamente quello che lei ha individuato. La scuola non è un problema di ordine pubblico dei professori, delle famiglie o anche dei ragazzi, è il pilastro della crescita di un paese. Le faccio due numeri, perché siamo a Radio 24, è bene fare dei numeri. Il nostro paese è il paese che è cresciuto di meno dal 1990 fino al febbraio del 20, di meno di tutti i paesi, ma è anche il paese che ha, lo sappiamo, investito meno in educazione. Forse le due cose sono collegate. E sono collegate in particolare considerando che in mezzo c'è stato un salto tecnologico che ha cambiato non soltanto la nostra vita quotidiana, dal telefono col filo fisso come avevamo a un telefonino che ci tiene collegato 24 ore al giorno, ma è cambiato anche per le imprese, è cambiato per l'economia. E allora la scuola deve essere il motore non soltanto di una nuova società, ma anche di una nuova economia. Io credo che sia questo il punto e devo dirle, mi sembra giusta la sua domanda e la sua riflessione. No, ma è chiaro, cioè la scuola è il pilastro, non c'è dubbio della crescita di un paese. Io non avrei dubbi a collegare i due dati che ci ha detto, scarsa crescita e scarsi investimenti nella scuola. Non ci sono dubbi che sia così. A proposito di digital divide, so che lei punta molto anche sulla digitalizzazione, sull'importanza della tecnologia che aiuti la scuola. Ci siamo accorti di quanto fosse questo importante quando ci siamo trovati tutti con questa didattica online a casa, no? E molti allievi non hanno neanche una connessione e ci siamo accorti dell'arretratezza da questo punto di vista. Allora, mi faccia fare due riflessioni anche in questo caso con due numeri e due date. Il salto nella digitalizzazione c'è stato sostanzialmente subito dopo la crisi. Con la crisi del 2007-2009 siamo sprofondati dopo una fase di euforia che non aveva precedenti nella storia economica dell'Occidente. Siamo sprofondati perché abbiamo scoperto che l'economia non è soltanto finanza, ma è anche relazione. e tra l'11 e il 12 c'è il grande salto, quello che viene chiamato il passaggio dal 3G al 4G, cioè delle reti che sono in grado di portare tanti di quei dati, che lei dal suo telefonino non fa più soltanto la voce, ma manda le foto, manda i dati, manda tutto quello che deve mandare. Che cosa salta fuori? Salta fuori che noi in quel momento lì, lei se lo ricorda, eravamo con la testa da un'altra parte, era il momento dello spread a 500. Infatti, non abbiamo investito, noi non abbiamo investito in niente. Non abbiamo investito e dopo 8 anni scopriamo che il numero delle imprese che facevano smart work in Italia era meno del 9%. E allora a fronte di questo avevamo una scuola che non aveva sviluppato un pensiero sull'idea che la distanza non è l'alternativa alla presenza. Perché nel momento del Covid non è che avevamo l'alternativa presenza o distanza, avevamo l'alternativa distanza o assenza, cioè chiusa. E allora sì. i nostri insegnanti hanno fatto i salti mortali per tenere un collegamento. È quella la forma per sviluppare delle tecnologie per un insegnamento a distanza? No, c'è un'enorme ricerca su questo, c'è un'enorme ricerca che dice che gli strumenti a distanza sono stati usati ormai da 20 anni per collegare tutti coloro che non erano in condizione di andare alla università, ad esempio, con il vecchio modo, cioè dalle 9 alle 12. Ma quelli che in realtà erano in condizione non perché lavoravano e perché erano in condizioni estreme e che avevano bisogno di far fare a tutto il paese un salto educativo. Ecco, allora, a questo proposito, professor Bianchi, no, le faccio questa domanda perché sui giornali c'è un grande dibattito, Repubblica lo ha lanciato, sul tema della didattica a distanza. Vi segnalo oggi interventi di due cattedratici, tra l'altro universitari, il professor Alberto Asorrosa, filosofo su Repubblica, che dice, in sostanza, riassumo, no, le aule vuote non vanno bene, la distanza dagli altri è stata necessaria, ma non è questa la scuola. Invece il professor Perissinotto, che insegna semiologia sulla Stampa, dice fuori dal coro insegnare online funziona. Ovviamente si parla di insegnamento universitario. Certo. Il suo parere, professor Bianchi, perché guardi che molti genitori sono con le mani nei capelli, soprattutto no. i genitori di bambini delle elementari o delle medie. Allora, come su questa didattica a distanza. Ma come sempre, in questo paese o tutti da una parte o tutti dall'altra, no? O tutti per la Callas, o tutti per la Tebaldi come un tempo, o tutti per Coppi, o tutti per Bartali, per i nostri nonni. No, attenzione, l'educazione è uno strumento che deve usare gli strumenti della propria epoca. Quando noi parliamo, dimentichiamo che i nostri ragazzi tutti i giorni fanno 2-3 ore di computer, di telefonino, cioè loro hanno una capacità d'uso degli strumenti che noi non abbiamo. La vera differenza è che i ragazzi che oggi vanno a scuola da 0 a 18 anni sono nati tutti in questo secolo, i loro insegnanti sono nati tutti nel secolo precedente. Noi siamo stati formati con un'idea di scuola che era monotematica, io che guardavo il professore che ogni tanto mi guardava me. I ragazzi nostri hanno più strumenti, non c'è uno strumento alternativo all'altro. I bambini piccoli hanno bisogno di presenza. I bambini piccoli hanno bisogno di presenza, man mano che crescono si abituano a usare diversi strumenti, un bambino di 6-7 anni disegna su un iPad, suo babbo e suo nonno non sono capaci, i grandi devono usare tutti gli strumenti. Allora io credo che noi abbiamo fatto poca ricerca sugli strumenti per la didattica, perché noi in realtà tendiamo sempre a riportare le cose che abbiamo di fronte a quelle che abbiamo alle spalle. E allora non c'è dubbio che la presenza è un rapporto umano che non viene mediato da uno strumento. Sì. Però i miei figli sì, alla sera giocano a un videogame con un loro amico che è in Australia. È un modo di ampliare. Sono strumenti. Noi dobbiamo insegnare la consapevolezza degli strumenti, perché la macchina loro la conoscono meglio. Sì, diciamo, non è un'alternativa tu pur, no. Però servono certamente. Le chiedo questo. Si usano tutti gli strumenti. Certo. In questi mesi anche lei si avrà sentito il coro di tante persone dire non fanno niente per la scuola, si stanno dimenticando per la scuola, e lei con la sua task force era lì a lavorare per la scuola. Sì. Che effetto le hanno fatto l'eco di queste proteste di genitori che dicono hanno riaperto tutto, la scuola no? Guardi, allora, due cose. Prima tutti ci dicevano solo l'Italia è chiusa, guardate gli altri che bravi. Gli altri, devo dire, sono tornati indietro in tanti, sono tornati indietro in tanti. In tanti avevano fatto delle aperture e poi hanno fatto delle chiusure. La scelta di tenere chiusa la scuola è dipesa dalle autorità sanitarie, su questo noi non siamo mai intervenuti, così non siamo mai intervenuti sugli strumenti di contenimento sanitario, cioè quante mascherine, quanti centimetri, quanti metri. Questo non era il nostro mestiere, è il mestiere del Comitato Tecnico della Protezione Civile, perché c'era proprio un problema di protezione civile. Io devo dire che ho trovato in questi interventi degli interventi che hanno accumulato nel tempo una disattenzione per la scuola. La scuola è stata vista semplicemente non come presenza, ma molte volte semplicemente come il luogo in cui tenere i figli. Tenere i figli è fondamentale, affidare i propri figli a qualcuno in cui avere fiducia è fondamentale, ma la scuola è molto più di questo. Io ho l'impressione che il vero problema è che non solo non si è investito in risorse nella scuola italiana, ma non si è investito in attenzione. Io ho un'esperienza che per me è stata fortissima. Io, dopo aver fatto il rettore, ho fatto l'assessore della Regione Emilia Romagna ed ero assessore quando è venuto il terremoto. La gente si è accorta che le scuole non c'erano più quando fisicamente le scuole sono cadute e sono state ricostruite le scuole, perché si aveva l'idea che la ricostruzione delle scuole diventasse il battito di tutta la comunità, cioè fisicamente diventava il momento in cui una comunità che doveva ricostruire si ritrovava. No, ma io capisco, professore, cioè molti sicuramente lo vivono, la dico io questa espressione brutta, un po' come il parcheggio per i figli, però per come è strutturata la vita, l'ha detto anche lei, le aziende non facevano smart working, certo, uno come fa ad andare a lavorare se ha un bambino di 6 anni o 7 anni? Cioè, ma lo so che può essere visto come un parcheggio, però non è così, è il punto centrale della vita di una famiglia. Assolutamente, per questo bisogna che noi usciamo da questa fase avendo la forza e il coraggio di rimettere la scuola al centro, sia come luogo in cui affidare i figli, che è una cosa fondamentale, perché lei i suoi figli li affida soltanto a gente di cui ha fiducia, ma anche perché in quella fase lì si stanno preparando i ragazzi e si sta preparando il paese nel suo insieme, oltre che i singoli ragazzi. E questa mancanza di un dibattito sulla scuola che ho trovato francamente oggi non adeguato al livello di problemi che abbiamo. Tutti mi domandano per questo che mi ha colpito, per questo che mi ha colpito che anche negli Stati Generali, almeno leggendo dai giornali, sembra che ci saranno temi importanti al centro. Non ho visto la scuola, ma magari è stata una distrazione dei giornali. Però ecco, professor Bianchi, ho letto sul Fatto Quotidiano un'altra notizia, questa invece mi ha inquietato, sulla ripresa della scuola. Si vota il 20 settembre, si sa, l'election day, eccetera, e quindi può essere che per l'allestimento dei seggi che prevedono alcuni giorni, per cui si dovrebbe aprire il 15, allestire i seggi, poi chiudere, insomma, risultato, la scuola potrebbe aprire più tardi, il 25 settembre. Ho detto, ma come? È chiusa da marzo, invece che aprire prima per le elezioni la apriamo dopo, ma allora riapriamola nel 2021, cioè chi se ne frega della scuola. Ho letto anch'io questa cosa. Ma è vero? È vera questa notizia? Guardi, cioè che lei sappia? Guardi, due cose. Allora, il calendario scolastico viene indicato dalle regioni. È regionale, certo. E dall'altra parte questo tema delle elezioni che erano previste per la primavera sono state spostate a settembre, dipende dal Parlamento. Io l'altro giorno sono andato alla Camera a riferire sul lavoro che stiamo facendo e devo ringraziare la Camera, ho sentito anch'io che avevano questo tema. Io mi sono permesso di esprimere lo stesso parere che lei ha dato. Io credo che sia un bisogno nel paese di riaprire le porte della scuola il prima possibile. Se poi questo non è possibile in tutte le regioni, si troveranno dei modi comunque per far tornare i ragazzi ad una condivisione di attività comune. Però il 25 settembre mi sembra veramente molto, molto, molto avanti. Molto in là, molto in là. Sì. L'ultima questione, guardi, l'ho lasciata per ultima perché so che è un dettaglio, però ci si sono scatenati tutti i giornali. Ma questa storia del plexiglass, lei ci può spiegare se esiste, è mai esistita nel comitato? Perché la sensazione. No, perché la sensazione però è che anche a livello ministeriale ci fossero delle idee buttate lì per vedere il vento che tirava e poi di fronte a una reazione magari un po' sdegnata a dire no, no, ma nessuno ne ha mai pensato, al plexiglass. Voi non avete mai parlato di plexiglass? No. No, per un motivo molto semplice, che come l'ho detto prima, tutte le misure di contenimento sanitario fuori al nostro perimetro. Per quanto riguarda la questione del plexiglass, io posso capire che vi possano essere delle situazioni veramente estreme che determinano anche condizioni di paura che possono spingere anche a pensare ad una cosa del genere. Io ho visto una fotografia dei bambini cinesi che tornavano a scuola tutti inscatolati, non mi sembrano questa la soluzione, non mi sembra neanche una soluzione che dal punto di vista umano possa rispondere ai bisogni di socialità dei bambini. Credo che ci sia, mi faccia dire l'ultima cosa, perché credo che sia importante proprio in termini di sviluppo economico. Noi veniamo da un'epoca che era il Novecento in cui le competenze che venivano richieste alle persone per poter operare nell'economia erano sostanzialmente molto frammentate, molto divise, molto gerarchiche, molto lineari, no? Quelle corrispondenti alla vecchia immagine del mondo fordista. Nella fase attuale quello che deve insegnare la scuola è l'uso degli strumenti e la capacità di condividere insieme dei lavori. Proprio la socialità diventa una competenza fondamentale per poter vivere insieme e risolvere dei problemi. Questa cosa si fa luogo per luogo. Noi abbiamo lavorato per permettere ad ogni scuola, e anche facendo delle semplificazioni normative enormi, di poter fare la scuola della vita insieme. Quella spiegazione che lei ha dato prima del plexiglass mi pare che risponda più a un problema di paure sanitarie che non a esigenze non solo educative ma anche di sviluppo. Certo, professore, noi la ringraziamo, grazie per essere stato qua. Ripeto, Patrizio Bianchi. Grazie a tutti. Patrizio Bianchi è docente di economia e politica industriale, è stato anche assessore appunto della regione Emilia Romagna, è stato rettore a Ferrara e molti lo hanno soprattutto conosciuto, ultimamente è stato il coordinatore che per mesi ha lavorato il Comitato Nazionale di Esperti al Ministero dell'Istruzione per il rilancio della scuola. Mi sembra che ci abbia detto tante cose interessanti su cui dibattere se volete o comunque su cui riflettere, questa è la cosa più importante, tanti elementi sull'importanza dell'investire nella scuola, un tema che certamente manca non da alcuni mesi ma da diversi anni. Noi andiamo un attimo in pubblicità, poi ci sarà, non si sa in quale forma ma lo scopriremo tra pochissimo, Leonardo Manera e tanti altri temi da affrontare. Va. 1, nessuno, 100 Milan. Sì, io ho capito la didattica a distanza, l'iPad, i bambini sanno disegnare a 7 anni e così e cos'ha. Il problema principale è che i nostri bambini frequentano delle scuole che da un momento all'altro gli possono cadere sulla testa. E questo è il problema principale. Il termine smart working è conio di una mente eccelsa italica. In tutto il mondo si chiama remote working. Buongiorno, adesso abbiamo la furia iconoclasta, adesso abbiamo i nuovi Savonarola. Mancano sempre di coerenza. Ma Manera, non sei pol mia, un giorno il gay, tu no? No, beh, devo dire da questo punto di vista che si presenta non in video, anche oggi. Buongiorno, caro Leonardo. Buongiorno, buongiorno. No, io sono sempre presente, sono ligio al dovere, tutti sanno che... Come mai non ti vedo su Facebook? Ma vabbè, perché ieri poi non ho avuto... No, ragazzi, allora, cioè non riesce neanche a reggere più le scuse. Non riesce neanche più a reggere le scuse. Mamma mia. No, ieri mi sono attrezzato per parlare. No, già inizi la frase con no. No. Allora no. Ieri ho cercato Sandro Fortunato. Ti? Ma poi Sandro Fortunato. Sì. e aveva il telefono che non era occupato. Ma che vergogna. Però, signori, semplicemente non voglio essere in video, cioè posso parlare tranquillamente così. Ma dillo. Magari sono qui in mutande, voglio alzare a farmi un caffè, fare due passi per casa e non star lì inchiodato davanti al computer. Comunque mi attrezzerò. Va bene. Però io non riesco oggi a tirargli le orecchie, perché Leonardo Manera ha messo a punto un progetto, ieri l'ha detto così per scherzo, dicendo: io ho le soluzioni per tutto, no? Tutto. Sì, esatto. E allora, Leonardo, tu vuoi davvero mettere alla prova questa cosa, vuoi sfidare gli ascoltatori. Invito subito gli ascoltatori, appuntatevi il 349-238-6666, messaggi WhatsApp audio, per fare cosa, Leo? Beh, se avete dei problemi, ma ho fatto lo spot, faccio sentire direttamente lo spot. Sì, cioè, hai addirittura chiamato con una rubrica, con un nome. Sì, anche con tanto di musica che faccio partire qui dal mio stereo, che tra l'altro è anche una bella musichetta. E quindi invito tutti a sentirla. Ecco. Senti che bella musichetta. Hai problemi di qualsiasi tipo e cerchi una soluzione definitiva? Allora Leo Risolve Facile, la rubrica dove Leonardo Manera, grazie alla sua saggezza riconosciuta da tutti, in un attimo e in poche parole giuste indica la strada maestra e dipana ogni matassa. Leo Risolve Facile e la vita ti sorride. Bella sta musichetta, tienila un pochino più bassa. Leo risolve facile, signori. È alta la musica? Beh, un pochino. Ci sta rimbombando. No, è giusto. Leo risolve facile, signori. Avete una domanda per un problema che vi attanaglia? Problema di che tipo? Personale, di comportamento? Di qualsiasi tipo, sì. Personale, di vita, d'amore, di scelte da fare. Non sapete come comportarvi? E allora chiedete a Leo risolve facile. Perché io, aspettate mia però saggezza... che devo urlare, cari ascoltatori, perché la musica non è controllata dal nostro alpino che può abbassarla. Quindi dobbiamo urlare molto per questa rubrica. Leo risolve facile. Grazie alla mia saggezza riconosciuta, risolvo sì, ogni problema. Da tutti. Va bene, esatto. Mandate al 349-238-6666 i vostri dubbi che vi attanagliano. Leo risolve facile. E qui puoi spegnere adesso la musichetta, grazie. D'accordo, peccato perché è bella questa musichetta. Ti ringrazierei. Dico com'è scritta la musica, qualora qualcuno la volesse poi scaricare. Allora, il pezzo si chiama, come è scritto, è Rare Silk, che vuol dire seta, silk, seta, è rara. Seta rara. Potete scaricarla. Va bene. Allora, adesso sul disco, però vogliamo dico anche il disco dove l'ho trovato. Sì? Christmas in jazz, cioè Natale in jazz. Christmas in jazz. Va bene. Mm-hmm. Ok. E per anche la lezione di inglese è tutto. Allora, adesso vogliamo tornare. Io avevo detto due giorni fa, quando ci ha chiamato in maniera accalorata una signora, la signora Anna da provincia di Brescia, a dire: guardate, io ho mio figlio da mesi in una RSD, una residenza sanitaria che si occupa della disabilità, e non lo posso vedere perché c'è una delibera della regione. Tra l'altro oggi c'è un interessante articolo, vi sottolineo, del Quotidiano Nazionale, la versione ovviamente Il Giorno: disabili condannati a un lockdown senza fine. Io voglio salutare Felice Garzetti, che è responsabile della struttura Firmo Tomaso di Villa Carcina, Brescia. Buongiorno Garzetti e grazie di essere qui. Buongiorno Milan e buongiorno Manera, grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori. Insomma, è la struttura a cui si riferiva questa signora, che devo dire, ma non lo dico per piaggeria, ma veramente ha detto nulla da dire, cioè la struttura si stanno comportando secondo le regole, stanno trattando molto bene i nostri figli. Il problema è che questi genitori hanno dei figli appunto con disabilità, nel caso della signora disabilità mentale, per cui dicono: ma i nostri figli che cosa capiranno di questo abbandono da parte dei genitori? Lei, Garzetti, cosa ci può rispondere? Beh, il problema esiste senz'altro e comincio col dire che siamo molto vicini e partecipi alle istanze dei familiari come la signora Anna. Capiamo il loro dolore e il loro sacrificio. è un sacrificio che abbiamo fatto tutti, perché per mesi qua abbiamo lottato contro un male complicato, soprattutto a Brescia. Molte strutture analoghe alle nostre sono state contagiate, hanno avuto anche delle perdite. Noi, in parte grazie alla fortuna, in parte grazie anche alle abilità degli operatori che qua lavorano, siamo riusciti a non far ammalare nessuno. Però siamo un servizio accreditato con Regione Lombardia, col sistema sociosanitario regionale, perciò siamo sottoposti alle norme che via via Regione emana. Certo, con questa delibera. Cioè, in questo momento, quindi, mi faccia capire, proprio le strutture sono ancora di fatto chiuse? Perché io leggevo che erano riaperte, soprattutto no, le residenze per anziani. È riaperto quasi tutto, perciò perfino il calcetto fra poco si potrà andare a ballare. Sì. Ma le strutture, anche in base alla recente delibera del 9 giugno, cioè la gestione della fase 2, intendiamoci, fino a fine emergenza, che per ora ci immaginiamo il 31 luglio, sono ancora chiuse, nel senso che fino gli al 31 ospiti, luglio, quindi rimarrà così fino al 31 luglio, immagino. Io mi immagino di sì e spero che non continui, perché a questo punto, diciamo, dobbiamo cominciare a occuparci del benessere anche affettivo delle persone. Ovviamente qua gli operatori hanno sublimato in qualsiasi modo le carenze dei contatti con i familiari. Sì, sì, per abbiamo carità, sempre... ma il genitore è il genitore, cioè lo sappiamo, lo sappiamo, le istanze dei genitori sono condivisibili, assolutamente. Ma noi abbiamo qua a che fare con un peccato originale, io lo dico brevemente, nel senso che tutta la normativa di riferimento per Regione Lombardia fa capo e uniforma le residenze per anziani alle residenze per disabili, perfino alle comunità per disabili. Ma la tipologia di utenza è completamente diversa. Di là parliamo di 85 anni che perdurano poco tempo in RSA. Noi invece abbiamo ospiti che vivono, che magari arrivano a 18 anni, che vivono per decenni, che trascorrono la loro vita qua. I contatti con i familiari, che possono essere settimanali, nel weekend, oppure più occasionali, sono fondamentali per il benessere. No, no, ma guardate, cioè, cari ascoltatori, meditiamo su queste parole che ci dice Felice Garzetti. Tra poco è stato slittato, insomma, tra poco ripartirà il calcetto, si potrà il calcetto, gli sport di contatto, sì. Si potrà tornare in discoteca, ma un genitore non può abbracciare un figlio disabile, no, probabilmente fino al 31 luglio. Guardi, è proprio perché... impossibile, nel senso che la norma ci blocca da questo punto di vista e ci anzi, non potremo neanche assumerci una responsabilità diretta rispetto a queste cose. Ciò che abbiamo fatto per ora è quello di incrementare le videochiamate, talvolta spesso con i mezzi propri degli operatori. Via via ci siamo attrezzati, perché abbiamo vissuto mesi, marzo e aprile, veramente complicati. E adesso è possibile incontrare da qualche settimana a distanza i propri familiari, ma è impossibile l'abbraccio, così come è impossibile il rientro a domicilio per magari trascorrere qualche ora o perfino il weekend, che per alcuni dei nostri ospiti era un'abitudine, una sana abitudine. E questa situazione ci è assolutamente impossibile. Io credo che prima o poi dovrà il nostro legislatore fare i conti. Sì, sul fatto, la Regione, che ma la... voi avete fatto, sì. Cioè, c'è un gruppo, come dire, tra virgolette, di pressione, di sensibilizzazione, si direbbe di lobbying verso la Regione Lombardia, dire guardate che qui cioè, bisogna anche curarsi di questi aspetti psicologici e affettivi delle persone. Guardi, c'è e si è molto adoperato per un dialogo. Prima della normativa, ma siamo stati un po' disattesi. Ovviamente parlo di enti gestori, perché noi siamo enti gestori. Io penso che i genitori debbano cominciare a far valere, come dire, i propri interessi e a portare istanze, perché diversamente la situazione credo che non si sblocchi. Non si sblocchi. È sempre un po' così in Italia. In questi, cioè bisogna farsi un po' anni, sentire. Guardi, bisogna un po' farsi sentire, però bisogna bussare anche le porte giuste, nel senso che noi siamo sottoposti a normativa che assolutamente non ci lascia nessun spiraglio, perciò con grande dolore e partecipazione, certo. Però in questa fase non possiamo ancora permettere gli abbracci. La signora Anna, come altre mamme, le ho viste soffrire proprio di questa condizione e sono anch'io, come dire, molto vicino e dispiaciuto, ma se potessi fare qualche cosa da padre di famiglia lo farei senz'altro. Ecco, questo... Guardi, Felice Garzetti, io intanto la ringraziamo, Leo. Il 31 luglio era il termine fissato originariamente. come termine dell'emergenza, quindi non è stato cambiato nonostante si potrebbe anticipare, si fanno DPCM ogni due secondi, si potrebbe cambiare, sì. Si potrebbe decidere, abbiamo deciso di riaprire prima, che ne so, dal 15 giugno, dal 20 giugno, la possibilità dei familiari di ricongiungersi con i loro ragazzi nell'RSD, ragazze. Vabbè, intanto noi la ringraziamo perché ci ha chiarito questa questione, cioè avevamo preso a cuore insomma lo sfogo di Anna, mamma addolorata di non poter rivedere il figlio se non salutandolo dal balcone, soprattutto dicendo essendo un disabile mentale chissà cosa capirà mio figlio, e vedremo se ci saranno sviluppi, spero positivi, prima del 31 luglio. Intanto Leonardo, allora guarda che arrivano le prime domande, arriva la domanda: cosa fare contro il razzismo? È una tipologia di domanda giusta, una risposta contro? Non credo che siano i problemi, i grandi problemi che Leo risolve facile, oppure beh, sì. Ma anche qua, ma tutto si può risolvere in modo facile. Allora, sì. Il razzismo in due parole, scusate, è un problema. Attenzione. È un problema serio. Sì. E allora cosa fare contro il razzismo? Un po' cosa di apertura fare? Mentale. Apertura mentale, andare al cinema, per esempio. Perché andare al cinema ti è apre... chiuso il cinema, sì, ti adesso. Adesso il 15 riapre. Andare al cinema ti fa vedere tanti mondi diversi, quindi apri anche un po' la tua mente e sei disposto ad accettare in modo diverso anche le persone che secondo te sono... Altra domanda, va quindi bene, la risposta: cosa fare contro il razzismo? Andare al cinema. Leo risolve facile. Poi c'è un'altra domanda prima del traffico. Sì. Per Leo risolve facile: se in amor vince chi fugge, ma l'altro non ti insegue, che si vince? Questa è un po', sembra quasi un indovinello, sembra, Allora, se in amor vince chi fugge, ma l'altro non ti insegue, che si vince? Beh, si vince un corpo più tonico. Questo è facile, si vince un corpo più tonico, perché a forza di correre ti dimagrisci, diventi più tonico Leo risolve facile. Va bene, andiamo al traffico, va. Gli anni 90, che anni, che ritmo. Nord, sud, ovest, est. È forse quel che cerco e neanche c'è. Ma sì che c'è. Se cerchi un software gestionale che ti permetta di gestire i tuoi processi aziendali sempre e ovunque, in ufficio, in viaggio, in smart working, in cloud, oggi c'è. Con Fluentis hai tutte le funzionalità di un ERP evoluto, completo di CRM e di Business Analytics, per analizzare i tempi e ridurre i costi della tua attività. Non ci credi se non vedi? Vai su fluentis.com, scarica l'app e inizia subito la tua prova gratuita. Fluentis, la F che funziona. Uno, nessuno, 100 Milan. Leo risolve facile. Mi si è spenta la caldaia, non si accende, cosa devo fare? Leo risolve facile. Bene. Vabbè, intanto prima cosa diciamo che è fortunato perché si è spenta adesso che c'è caldo. Quindi ecco, il mio suggerimento è non fare nulla. Non fare nulla. Che risoluzione è? No, è la soluzione che in questo momento non c'è bisogno della caldaia per l'estate. Ecco. E quindi per il momento non fare nulla. Dopo vedremo, le docce calde non sono neanche necessarie d'estate. Se no le diamo un numero di un buon tecnico, si chiama Cristiano, Cristiano 335. Viene il venerdì soprattutto, quindi è perfetto. Allora, Leo risolve facile, mandate i vostri quesiti esistenziali o più semplici al 349-238-6666. Caro Leo, prima di darti i microfoni voglio far ascoltare un consigliere della Lega a Udine, si chiama Pavan, che ha lanciato un tema molto molto serio, perché tutti si occupano dei poveri, ma Carlo Pavan invece pone un'altra questione, sentilo qui. Disparità di trattamento, qua si parla sempre e solo dei poveri, ma i ricchi che pagano l'IMU? Scusate, o i ricchi che pagano le tasse e nessuno dice niente? Cioè, ci sono anche i ricchi a Udine, non ci sono solo i poveri. Ci sono anche i ricchi. E com'è che non ci occupiamo dei ricchi? Ma senti, vai avanti, vai. Che volevo farvi notare era che sabato, in Viale Tricesimo, davanti alla Media World, Al pomeriggio c'erano 200 persone in fila per acquistare l'iPhone a 600 euro. Due o 300 iPhone da 600 euro l'uno. Questi sono i nuovi poveri che abbiamo a Udine. Ecco, i nuovi poveri. Hai capito? Il consigliere della Lega che dice poveri, poveri, poi in fila a comprarsi l'iPhone. E ai ricchi chi ci pensa? Questa disparità di trattamento? Chi pensa ai Manera? Mi è venuta una risposta migliore per la caldaia, adesso che ci ho pensato qualche secondo. Va bene, Leo, risolve facile. Venderla sul web fingendo che sia sana, anche a basso costo, così con quella che guadagni puoi comprarne una nuova, in parte, contribuire a comprare una nuova e poi usufruendo anche dei benefici di legge. Attenzione alle truffe, alle truffe. Vabbè, vai Leo, vai. Sì, pensavo a rivenderla come nuova rotta, cioè, vai, a te il microfono. Da qualche tempo ormai, almeno per quanto riguarda il traffico e le persone per strada, la vita sembra tornata normale. Però dopo mesi in cui ci eravamo abituati a non vedere quasi più nessuno, ad alcuni confrontarsi di nuovo col genere umano può dare fastidio, nonostante ci sia anche un grande desiderio di socialità. C'è stata, è vero, una socialità forzata per chi stava in casa con la famiglia, ma quel tipo di socialità non sempre dà soddisfazione. Vivendo a lungo con le stesse persone, ti accorgi che ci sono alcuni particolari in quelle persone che frequenti costantemente che cominciano a darti fastidio, che cominciano a non sopportare più, che producono una rabbia sottile che poi diventa insofferenza e alla fine spesso causa di separazione. Per esempio tuo marito che tiene la forchetta in quel modo che ti sembra innaturale, che ogni giorno cominci a odiare ogni volta che lo vedi mangiare. Tuo marito che ha quel tic per cui tira sempre su col naso anche quando non è raffreddato. Tu odi quel piccolo rumore che giorno dopo giorno ha accompagnato la tua vita. E poco alla volta cominci a identificare quel piccolo tic che così tanto ti infastidisce come la causa principale delle delusioni della tua vita. Oppure tua moglie che ha quel particolare modo di ridere, sentito troppe volte. Quell'altro tuo parente che mangia e deglutisce in modo rumoroso. Tuo marito che ha quel leggero russare sibilante che rende insopportabile ogni notte passate insieme e che ti obbliga da sempre a mettere i tappi nelle orecchie. E allora l'odio poco alla volta sale e arriva fin dentro, se russi, fin dentro le trombe di Eustachio, se il tuo compagno russa, ed è ancora peggio se il marito si chiama proprio Eustachio. Quelli che all'inizio di un rapporto o di una conoscenza sono visti come dei piccoli simpatici vezzi, poco alla volta accumulandosi ora per ora, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, diventano insopportabili e insostenibili. Anche nell'ambiente di lavoro, ogni consuetudine ripetuta dal collega di scrivania, ripetuta ogni giorno alla stessa ora, nello stesso modo, diventa fonte di intolleranza. Odiamo le cose o i tic che si ripetono sempre perché vorremmo altro, forse vorremmo poter variare la nostra vita che appare così monotona anche a causa dei tic dei vicini di posto, dei vicini di letto, dei vicini di casa. E allora fare il passo finale si può. Andare a vivere da solo, non necessariamente in un'isola, ma in un piccolo borgo, senza dividere niente con nessuno, senza ripetizioni insostenibili, soprattutto senza quell'Eustachio. Extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Ma, come insegna la canzone Finardi, anche la solitudine ha lo svantaggio della paura. E poi c'è il rischio che, non avendo più i tic altrui da odiare, ognuno finalmente solo cominci a odiare i propri tic e le proprie manie, i propri comportamenti ripetuti, perché senza altri da odiare c'è il rischio di odiare se stessi e c'è il rischio di odiare se stessi più degli altri, c'è il rischio di rimpiangere poi quel collega che ogni giorno alla stessa ora, allo stesso minuto chiedeva il caffè d'orzo perché quello normale fa alzare la pressione e tu lo odiavi quel caffè d'orzo del tuo monotono collega e quell'orzo ti rendeva nervoso più di 10 caffè di pura arabica e ti faceva salire la pressione a 200. Insomma, a quanto pare non c'è mai via d'uscita, soprattutto se ti chiami Eustachio. Infatti lo pensavo anch'io, come mi mancano però quei momenti in cui Elisabetta Fusconi si avvicinava alla macchinetta e si faceva la broda, come la chiama lei, questo caffè lungo. Adesso un po' mi mancano effettivamente. Prima mi trovavo dei momenti molto fonte di nervosismo, perché... Però adesso effettivamente un po' mi mancano. Ecco, scusate cari ascoltatori. un po' mi mancano questi momenti in cui si avvicinava di soppiatto, sventolando la bandierina svizzera, facendosi la broda, con la macchinetta che andava. Ma tornerai in però... radio o non tornerai più tu? No, ecco, devo rispondere a un ascoltatore che mi ha detto, cioè, però come mai ti hanno recluso a casa, lontano dalla redazione, cioè, come se ci fosse un complottone? No, semplicemente, insomma, c'è lo smart working, o lavoro agile, o remote working, o lavoro da remoto per tutta Italia, per molta parte d'Italia, insomma, viene favorito, viene agevolato. Dopodiché, insomma, niente, non ci sono misteri, però adesso se volete ne trovo uno di questo mistero. Forse mi stanno cacciando e non lo so. Bah, vabbè. Da domani magari accendo un microfono, non va più, chi lo sa. Intanto giornale radio e poi rientriamo insieme. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. bredaportoni.com. Ai suoi tempi non era possibile, ma oggi Darwin può andare in radio. Qui, su Radio 24, è iniziata una nuova trasmissione. Darwin, l'evoluzione della scienza. Dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Storie di scienza, di tecnologia e di innovazione. Dai robot che cucinano le lasagne alla realtà aumentata per la chirurgia. Dalla scoperta del primo dinosauro acquatico al riciclo dei pannolini. Darwin, tutto quello che si può raccontare sulla scienza. Tre puntate originali in podcast sul sito di Radio 24. Dal 29 giugno on air tutti i giorni alle 20:50. Con Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Ovviamente qui su Radio 24. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. 1, nessuno, 100 Milan. Domanda per il buon Leonardo: se Francesco è il testimone di nozze di Federico, Federico per Francesco chi è? Grazie Leonardo. Beh, questa per Leo risolve facile è una domanda complicata. No, abbiamo sbagliato. Non è che io sono qui a risolvere degli indovinelli o dei quiz, io risolvo problemi. Questo bisogna chiarire. È vero. Quindi non hai una risposta. No, anzi, non ho ti una interessa. Risposta. Non mi interessa, non mi ci applico. Ecco, mi occupo di cose più. Allora, rispieghiamo. Leo risolve facile, risponde in maniera semplice e facile a problemi pregnanti, insomma, problemi che magari vi attagliano da una vita. Sì. Dai, mandateli al 349-238-6666. Adesso vogliamo tornare, poi forse chiudere questa lunga vicenda sulla questione Paul McCartney voucher, anche se ho capito che adesso, leggevo ieri sul Corriere della Sera, a un certo punto su Corriere.it era la prima notizia del giorno, non tanto Paul McCartney ma tutta la questione dei voucher, cioè tutti i consumatori che vogliono indietro i soldi invece che voucher. Torna con noi, lo ringraziamo, Mimmo D'Alessandro, fondatore insieme ad Adolfo Galli della D'Alessandro e Galli, insomma il promoter del concerto che purtroppo non ci sarà di Paul McCartney. Mimmo, eccoci qua. Buongiorno. Perché quindi Paul McCartney ha parlato. Quindi da quello che ho capito Leo può risolvere il mio problema. sì, lo posso lo risolvo in un attimo. Vediamo, adesso allora. Vediamo se c'è subito la risposta. Allora, però intanto sì. Allora, la mia risposta è questa. L'importo che ognuno ha pagato per il biglietto viene ripagato per metà, cioè metà si rendono i soldi e l'altra metà si dà un voucher per un altro concerto, così si farebbero contenti tutti. Lo sai che lo stanno facendo in Austria questo? In Austria stanno facendo questo. Chi non accetta il voucher e vuole prende il 50%, accetta il 50%. Però a Londra, come ci hanno detto molti, Mimmo, danno tutto indietro, addirittura danno dei voucher maggiorati in alcuni casi, però Londra danno i soldi per esempio. Cioè Paul McCartney ha detto solo in Italia c'è questa cosa. Non è così. Non è così, però come ho detto l'altra volta, guarda Alessandro, noi è una cosa che non abbiamo chiesto. io con sorpresa. C'è una legge, però, certo. Esatto, è venuto fuori il voucher, non l'abbiamo chiesto noi, non la, il governo ha messo, ha tirato fuori questa storia del voucher, e no, che noi ringraziamo perché per noi è ossigeno. Sì, ragazzi, non ci dimentichiamo che questa è una filiera di qualche, da lavoro a 410.000 persone. Non ce lo dimentichiamo questo. Chi ama la musica. Ma infatti Paul McCartney se l'è presa con il governo italiano, cioè dice con le leggi italiane che consentono questo. No? Paul McCartney ha detto è scandaloso che il governo abbia consentito questa cosa. Per te invece no, anzi è ossigeno. È ossigeno perché è una filiera, perché noi quando abbiamo accettato questa cosa, noi all'inizio volevamo chiaramente rimborsare, poi abbiamo detto per non far crollare tutta una filiera. Ci siamo adeguata a tutto il mercato, a tutti i nostri colleghi, perché mi sembrava ingiusto fare una roba lì. Però chi ama la musica è un sacrificio che può fare, perché pure perché non perdo una lira, perché i voucher sono soldi. Noi, tipo, questa è una notizia, noi abbiamo già superato i 20.000 voucher già evasi. Gente che è già accettato. Noi abbiamo sì, però non perdono i soldi, ma qui ritorniamo alla solita questione, cioè uno non perde i soldi, uno voleva vedere Paul McCartney, non gliene frega niente di vedere un altro ma concerto. Dopo, sì, però dopo tu 18 mesi e non hai trovato un artista che ti piace, che tu non accetti, dopo 18 mesi tu avrai i tuoi soldi, avrai il tuo cash. Non sì. È che tu lo... Quindi, questo è il modello tedesco che stanno facendo pure in Germania. E questo è l'emendamento che... di cui ci ha parlato Battelli l'altro esatto. Giorno. L'emendamento corretto. Che voglio. Quindi passerà questo corretto. Emendamento? Cioè, noi se siamo, uno attende 18 siamo, mesi. Noi ci siamo per questo, okay. Certo. Okay. Dopo 18 mesi tu già. Prendi i tuoi soldi. Nessuno perde una lira in tutto ciò. Però dai la possibilità a questo mondo di sopravvivere. Perché se crolla il mondo dell'Aida. Tu per vedere non il ci sarà più concerto, aspetterai 5 anni. Già questo però Mimmo è una novità avanti, rispetto sì. All'altra volta ce l'avevamo sentiti, cioè vuol dire che tra 18 mesi chi non vuole usufruire del voucher riavrà indietro i soldi se passa questo emendamento Battelli, abbiamo ospitato Battelli qualche giorno fa. Noi siamo per questo, e se non dovesse passare noi facciamo i modi che passa, e se non passa noi restituiamo, dopo 18 mesi restituiamo comunque i soldi a chi li vuole. Poi stiamo studiando questo... pure un'altra cosa, stiamo studiando dei benefit per le persone che hanno accettato il voucher, che hanno aiutato questa filiera, questo mondo è così, questo mondo è così importante, che è la musica dal vivo, che dal vivo. Dove sì, vabbè, insomma, diciamo, cari fan di Paul McCartney, intanto nel caso bisogna aspettare 18 mesi, cioè avere i soldi subito, questa mi sembra che è improponibile, insomma, avere i soldi indietro subito non è questo è troppo, cioè Mimmo D'Alessandro dice questo è troppo, andiamo a gambe all'aria. Però la questione è questa, ma questi soldi che sono stati pagati, cioè Paul McCartney non avrà ricevuto una lira, immagino, cioè a cosa servono di fatto? A stare in piedi vuol dire a pagare la cassa integrazione ai lavoratori? Noi la cassa integrazione la stiamo pagando e la stiamo pure anticipando noi. Tutti i soldi che noi abbiamo dato ai fornitori già prima, noi abbiamo dato, abbiamo tutti gli anticipi ai fornitori, alberghi, e che nessuno ti dà i soldi indietro, perché ci sono fornitori che non possono nemmeno darti indietro. Gli alberghi ci danno dei voucher, certo, gli alberghi ci danno dei voucher. Il fornitore, poi ti volevo far notare una cosa, che poi alla fine noi abbiamo pagato già 500.000 euro di tasse allo Stato, sul cachet di Paul McCartney, e questi soldi lo Stato non è che me li dà indietro, me li darà indietro perché li dovete pagare? Perché il cachet a Paul McCartney è stato pagato una parte, ma che lui subito ha mandato indietro, perché questa è una regola. Certo. Però lo Stato i soldi indietro non me l'ha dato. Io ho pagato le tasse il 30%. Ah, quindi voi avete già pagato a Paul McCartney e lui ha restituito i soldi, ma diciamo le tasse invece le avete versate e quelle lo Stato. Esatto, quello te le ridarà indietro lo Stato quando tu inizi a lavorare, cioè quando la prossima volta che tu pagherai le tasse rientri di questi soldi. È un po' come esatto. Quindi poi quando tu organizzi un concerto, ragazzi, non è che tu domani pigli e organizzi, ci vogliono 2 anni. Ma 2 anni di lavoro, ci sono dei sacrifici, di quei soldi lì, dei biglietti, sono lì in un angolo e non li tocca nessuno, sono dei legittimi proprietari. Assolutamente nessuno tocca 100 lire. Assolutamente no. Questo facciamo è un punto. In modo che questi soldi rimangano nella sì, musica, sì, sì. Rimangano in come rispondi a quella questione? È vero che c'è stata una legge, però tutti sottolineano che c'è stato l'annullamento del concerto di Paul McCartney e dopo tot giorni, una decina, il decreto. Allora, beh sì, c'è stato l'annullamento, è avvenuto prima del decreto Cura Italia. Cioè, no, l'annullamento è stato il giorno 8 maggio, perché dopo quel giorno lì, la decisione è stata presa il 30 aprile, perché era il giorno limite che McCartney non poteva iniziare a fare le prove, perché tu quando fai un tour come quello lì, con una produzione enorme, con oltre 50 dischi di materiale, devi fare almeno un mese e mezzo di prove. Sì. E quindi quando non c'erano più i limiti, quando è uscita la notizia che per i concerti, e finché non uscì un vaccino i concerti non si facevano, quindi sì, poi sei costretto a cancellare, non è che ha cancellato lui, ci hanno fatto cancellare. Non è che l'ha annullato lui, ma l'ha fatto cancellare. E Franceschini però, ministro, che dice sì, è vero, insomma, sta un po' dalla parte di Paul McCartney, dice. Ma Franceschini, io sono molto sorpreso, io sono stato sempre un pazzo, però sono molto sorpreso delle parole di Franceschini, perché Franceschini il voucher l'ha tirato fuori lui. Non puoi fare come un elastico avanti e indietro, una volta una cosa, una volta un'altra, si decide cosa fare. Sì, sì. Voglio dire, o ci sta vicino o ci sta lontano. Cioè, vabbè, però la notizia, insomma, se mi sembra la novità è che non subito, ma tra 18 mesi, se uno non usufruisce del voucher, si riprende i soldi. Come tutte le persone che ha già evaso il voucher, hanno già preso il voucher e qualcuno l'ha già speso su altri concerti. Ci sono i numeri, non è che. Quindi e quali sono concerti ci sono? I concerti che saranno, perché adesso certo, i concerti non ci sono. Certo, certo. Ah, qualcuno l'ha già convertito su altri concerti? Molti hanno convertito su Clapton, ce ne sono artisti da quindi ci sono già persone. E ti dico un'altra cosa, che la maggioranza chiama per raccomandarsi che la musica non crolla, che ci sia, che vogliono essere assicurati che ci sia la musica il prossimo anno e che non contestano il voucher. Ci sono molti che sì. Su Clapton, quando dovrebbe essere il concerto di Eric Clapton? A nel maggio. Senso, si può fare? A maggio sì, dell'anno prossimo. Ma dove? Sono stati già in Milano e Bologna. Vabbè, insomma, effettivamente la musica è abbastanza assimilabile. Adesso si arrabbieranno magari i fan di Paul McCartney e Eric Clapton, però insomma è abbastanza, insomma, stessa generazione. Però uno se non trovi quelli che ti piace, tu dopo 18 mesi prendi quei soldi indietro. Quindi e insomma. Se invece tu vuoi stare vicino alla musica e accetti il voucher e vai a vedere, pure perché se ti piace leggere non è che leggi sempre lo stesso libro, infatti se ti piace la musica spazi pure, vai a vedere pure artisti che magari messa così, che è un po' cambiata rispetto all'altra volta, è già un passo in avanti. Adesso non so se saranno contenti quelli che vogliono i soldi subito, però Mimmo, noi adesso dobbiamo andare al traffico e dobbiamo salutare, insomma c'è stato un passo in avanti, direi, in questa trattativa infinita, ma ci hanno scritto gente che dice e le compagnie aeree che danno voucher peraltro di un valore minore rispetto al prezzo acquistato. È un mondo sicuramente complicato. Ringraziamo Mimmo D'Alessandro della D'Alessandro e Galli. Dobbiamo andare al traffico. 1 nessuno 100 Milan. Allora, sono le 10:22 minuti. Allora, io da tre giorni, non ne abbiamo parlato, caro Leonardo, da tre giorni però sono veramente sconvolto dalla notizia che è passata un po' sotto traccia, per la verità anche Michele Serra vi ha dedicato una maca su Repubblica, dell'uccisione di un'aquila reale in Alto Adige, una roba incredibile, cioè un cacciatore, non lo so come definirlo, anche ha ucciso un'aquila reale che stava covando, tra l'altro, quindi i conseguenti cuccioli nel nido. E giustamente è arrivata c'è una ricompensa da 1.000 euro, un'associazione ha messo in palio una ricompensa a dire vogliamo trovare chi è questo colpevole. Allora, io voglio salutare il mio scrittore preferito, Mauro Corona. Buongiorno Corona, come sta? Buongiorno, buongiorno. dal posto più bello del mondo vi saluto. Che è Erto, immagino. No, sono su a arrampicare a Misurina per il collegamento con voi, caro Milan. Sì? Ho ritardato questa partenza, ma è una giornata magnifica. Magnifica, va bene, ma noi allora tra pochi minuti la lasciamo alla sua scalata. No, ma tranquillo, è una roba ma corta di sopra. Sì, corta cosa vuol dire? Quanti metri? 200 metri, sono qui sul Monte Popena, sono vie dopo sbronza. Che si fanno per recuperare la sbronza? Per recuperare, perché se no se vai giù nella Valero ti vogliono 10 ore a salire. Certo. Quella dell'Aquila è una cosa infame. Io sono rimasto sconvolto. Questa foto addirittura c'è dell'Aquila con il becco aperto. Tra l'altro adesso hanno i piccoli. Non le uova, hanno i piccoli adesso. Escono fuori dal nido verso agosto, stanno parecchio lì. Ma queste uccisioni barbare, cui darei, senza esagerare, la pena di un omicidio. Quindi il problema è anche che i pastori, e che sono molte volte anche cacciatori, i pastori, queste aquile vanno a predare, gli agnelli, le pecore giovani, le capre, le caprette, quindi poi se vuole le racconto anche un fatto. E quindi nella loro ottusa, perché qui ci manca anche la cultura, manca la lettura, manca il rapporto vero con la natura, la dolcezza, l'armonia. Non è che il pastore va in fallimento per un agnello in meno, è così nella natura, il leone mangia la gazzella e quando non ha fame non la mangia. Sì. E questo è proprio il becerismo dell'ignoranza medievale atavica. Ecco, sì, pensiamo sì. Una persona così in famiglia, come si comporterà con la moglie, con i figli, questi despoti. Se vuole le racconto un fatto riguardo all'Aquila. Detto che Corona, c'è una notizia che anche nei giorni scorsi, nei Monti Sibillini, nelle Marche, anche lì è stata uccisa un'aquila fucilata. Cioè, ma io veramente vorrei conoscerlo, una persona, conoscerlo anche, per disprezzarlo. C'è anche un sottile piacere. Sotto, se andiamo nella psicologia, campo a me veramente indigesto e anche antipatico, c'è anche questo abbattere qualcuno che lo senti, lo vedi superiore. Guardate che quando vedete un'aquila, qui ce n'è un paio anche adesso che gira, quando vedete un'aquila con le ali tese che ci sovrasta, si trova gli imbecilli, provano un senso di inferiorità, invece che dire guarda che bella e mi vede. Una volta c'era. E cosa ci voleva raccontare? Un vecchio cacciatore, ora non c'è più, è morto a 83 anni, bracconiere. Mi ha detto un giorno: vieni con me che dobbiamo andare a uccidere un'aquila. Parlo di 40 anni fa, forse 30, dai. Ma come ucciderla? Mi mangia i capretti. Ma allora, invece che ucciderla perché l'avrebbe fatto da solo, io la salvai quella volta, però la costrinsi i piccoli alla prigionia. Mi calai in questo nido e venni aggredito dall'aquila. E avevo la roncola, il casco della motocicletta di mio padre, per fortuna, e subì 3 assalti, c'erano 2 piccoli nel nido. Li presi, perché il terzo assalto gli riuscì a tagliargli un pezzettino di ala, infatti la chiamavo ala monca, la vedevo senza le ali remiganti finali, le penne, e portai via questi 2 piccoli. Che li vendemmo a un allevatore, a un falconiere qui vicino a Misurina, non posso dire posso anche dire il paese Dobbiaco, e salvai 2 piccoli, ma li costrinsi alla prigionia, altrimenti lui avrebbe fatto fuori e la mamma e i piccoli. Questa è un'avventura e porto ancora i segni di questi attacchi. Ma come attacca un'aquila? Con gli artigli o col becco? Lui diceva, questo vecchio bracconiere, eravamo molto amici, più vecchio di mamma è morto, diceva non ti attacca, va tranquillo, ma io che sono re del sospetto, ho detto non si sa mai, e prendo la roncola e il casco. Ho sentito un fischio di una acutezza da rompere i timpani, l'ho vista arrivare come una pallottola nella grotta, perché ero in una grotta, mi ero calato con le corbe. Io ho messo la schiena al muro e quando mi è stata 2 metri ha aperto le ali come un ventaglio e con gli artigli mi è venuto addosso e ho parato 2 colpi, il terzo mi ha preso, però gli ho tagliato un po' di ala, una roba da film. una roba da film, tutto per salvare, in realtà, ma chiaramente l'Aquila non poteva saperlo, per salvare i cuccioli. No, infatti, ma non è una cosa bella. Da un'uccisione, certa. No, no, chiaro, chiaro. Ma ricordo un particolare che ci portò in auto, fu un mio parente dentista e quindi noto, che si travestì da donna con una parrucca per non essere riconosciuto. Questo per dire, Leo, che cosa avevi... No, qual è? Io non capisco qual è il gusto di alcuni bracconieri di uccidere quel tipo di animali. Detto, sì, detto, sì, certo, per qualcosa di superiore. Si sentono inferiori, si sentono inferiori. Il senso di inferiorità, anche questo mio amico che andammo a rubare l'acqua, aveva nei suoi trofei di caccia, ce n'aveva una in balsamà, cioè è l'ignoranza. Il mio amico Celio diceva: maledetta l'ignoranza mal distribuita, e questo pensiero atavico di abbattere qualcuno che ti è superiore, che ti è bello, molta ignoranza, molto senso di frustrazione, poi anche il lato, diciamo, tecnico di che ti ruba gli agnelli, chi ha i crelli, sì, sì. Ti ruba gli agnelli. Ma questo sì, è ma meno. Quello credo che sia, sì, esatto, cioè se proprio la giustificazione Italia, stupida. Sì, no. Ma se la burocrazia in Italia fosse un po' più sveglia, ma proprio l'ignoranza becera della burocrazia, di chi ci guida, perché se io, se l'Aquila mi sottrae due agnelli, vado lì e il giorno dopo al risarcimento. Invece devi provare, certo, che è stata l'Aquila e non il lupo, e non l'orso, e non la faina, e non la trota. E questi si stufano e risolvono il problema a modo loro. Certo che effettivamente se beccassimo quello che ha ucciso questa, sì, Corona dice considerarlo ergastolo. Allo stessa proprio stregua, perché noi siamo abituati a questa italiota mediocre, affondata sul lavoro, che nessuno paga. Ma se questo qui si fa 10 anni di galera, stai attento prima di toccare l'Aquila o la Poiana. Per tirarti qui non c'è niente, c'è una multa. E se uno è facoltoso, la paga prima. C'era un mio amico, che c'era una valle proibita le auto, c'erano 40.000 lire di multa, chi entrava in aria, ricchissimo, pagava prima in comune la multa. È un po' così, davvero la trovate questa immagine dell'Aquila morte? Erano 15 milioni, non faceva mica il figo. È chiaro. Mauro Corona, la lasciamo alla sua scalata, grazie per essere qui. Anche noi, Mauro, anche noi le vogliamo bene. Guardate, io ripeto, ce l'ho anche davanti in questo momento, l'ho riaperta questa foto dell'Aquila morta, perché volevo, parlandone e sentendo parlare Corona, vederla proprio. È impressionante, insomma, certo, come una vita tolta, ma è davvero bello questa idea, no? L'idea dell'inferiorità che ti spinge a fare un gesto assolutamente assurdo. D'altronde l'Aquila reale è proprio, come dice il nome, regale nel suo volo. Io non lo so, forse ho misto. Io ho più la sensazione che sia il gusto. Io ho più la sensazione che sia il gusto di fare qualcosa di proibito. Ecco, ci ho fatto una cosa che non si potrebbe fare. Anche dire, guarda, vediamo se la becco, cioè se sono capace di sparare, ci sarà? Boh, non lo so, poi entrare nella mente di chi l'ha fatto è un po' complicato, non lo so, sta di fatto che c'è una taglia, ma al di là della taglia è il gesto che è veramente odioso. In ogni caso, Leo risolve facile, ricordate, mandate i messaggi, tra poco magari ne sentiremo qualcuno, sono arrivati al 349-238-6666, avete problemi che vi attanagliano, Leo risolve facile. Ma vuoi farci lo spottino ancora con la musichetta prima della borsa? Sei pronto? E adesso no, non dopo sono la pronto. Borsa, dopo la borsa, dai, borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. She wants to go to the seaside. I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. Buongiorno Leo, e anche Milan, va, visto che è lì, sono educato. Ho un problema che mi attanaglia da anni. Ogni volta quando l'acqua bolle ed è calda, io devo buttare gli gnocchi, o anche, vale anche per i ravioli, dentro. Ma non è come buttare la pasta, cioè il volume è più grosso e per cui mi schizza tutta l'acqua fuori, tante volte mi brucia anche, capisci? Come faccio, Leo? Risolvimi questo problema, ti prego. Bah, questo vabbè, è molto semplice, è un problema che Leo anch'io facile, che ho dovuto risolvere varie volte. Non metti gli gnocchi o anche i ravioli tutti insieme, ne metti pochi alla volta in un cucchiaio e cali il cucchiaio lentamente, cioè dentro l'acqua. 10 minuti. Vabbè, comunque Leo risolve facile, ma ce l'hai adesso lo spot da fare o ti sei preparato o no? No. No. No, non ho avuto tempo, ragazzi, dovevo fare delle cose. Ma io dico, ti dovevi vestire, non lo so, per stare alle cose potabili. Vabbè, comunque, dopo, entro la fine della trasmissione, so, dopo il traffico del 45 lo farai? Lo spot? No, no, l'abbiamo rilanciare? Già detto, abbiamo già spiegato, non c'è bisogno di rilanciarlo. Vabbè, allora andiamo da Anacleto, dai. Anacleto, buongiorno, ciao. Io ho cercato di rimandare la telefonata, scusaci, ma eccoci fatto. Qui. Buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori e sicuramente la Chiesina. In questo momento viva la Chiesina, viva la Chiesina. Sempre, dissento da Mauro Corona perché il posto più bello è alla Chiesina. In questo momento sono sulla panchina in piazza e godo come un maiale. Hai capito? Che vista c'è dalla panchina della piazza? Macelleria. Due o tre negozi chiusi, il comune e l'edicola. Meglio dire sì, che vuoi fare? Basta, hai capito? Basta. Se mi chiamavi ma chi prima, è che passa? Passa perché sai, fai la posta al direttore di banca lì. No, ora ci vado. Ora ci vado, mi ha detto che fino a mezzogiorno e mezzo c'è. Che appena passa, sapete che appena passa il direttore di banca Anacleto, scusi direttore, e il direttore no, per carità. Ma che segruto per davvero, dai. Cioè si traveste come un clown il direttore di banca per non passare davanti all'Anacleto. Personaggio alla Chiesina, c'è mia come da te, da che vedi solo muri. Qui siamo nel mezzo della Valdignevole. Bello. Senti, ma hai un problema? Hai un problema che ti attanaglia? Che Leo risolve facile, te lo può risolvere? No, l'ho già sentito triste appena. Lo vedi che stamani tu ti riesci a levare una parola di voi? Che triste quell'uomo lì, come mai? Non lo so, stamattina ho dei pensieri, sì, devo dire che oggi ho dei pensieri. Sì, oggi è un po' pensieroso, sì. La caldaia l'ha pagata. Cioè, gli dici rifai il plomo, No. Non lo senti. Ti colleghi in video? No, ma perché non lo senti? È vero, oggi si sente un po'. Lo sai cosa faccio oggi? Ora dopo ce l'ho andare a pesce a questionare in un ufficio. Oggi sono qui davanti alla perché c'ho dei problemi, che lo devo dire? Perché comunque mi vanno tutti alla chiesina, ma ci sei andato l'altro giorno, ma te l'ha dato i soldi il direttore. Aspettavano tutti in piazza libero, tutti a ridere a pigiarmi per il culo. Sì, ma che sei matto per davvero? Figurati. Che devi fare dopo? Sì? Prendo una salsiccia dalla macelleria Desideri dal mio amico Mario. Hai capito? Me la metto sulla braccia, sono da Alberto Lupoli oggi, l'ho detto, due spaghettini e a luna si mangia, due bottiglie di vino. Però uno quando bianco, è così uno... la prossima volta, come due bottiglie? Due bottiglie da solo? In due, una bianca e una rossa. E che vuoi fare? Sulla salsiccia, una bottiglia, una bottiglia a testa. Il vino bianco e sulla salsiccia il vino nero. Il vino bianco può essere un calice. Sì, di vino no, se ne beve una bottiglia, poi dopo se ne parla dopo, hai capito? Ti volevo dire una cosa, l'avevo detto a Lorenzino io, che gli mandavo del vino buono di qua. Io lo pago qua, perché lo pago qua. Voi il trasporto ve lo pagate voi a Milano. Sì, ma guarda, ma se ti paghiamo anche il vino, se vuoi, il vino ve lo mando io, buono, una bottiglia per uno, Bolgheri, 13 e mezzo, oltre Mozambico, capito? dopo ti diamo un indirizzo, perché non siamo in radio, ti diamo un indirizzo, tutta una roba losca, lascia stare, la mia amica, lascia perdere. Non faccio dai. Come un'amica di Manera, te lo mando lì. Sì, oggi è triste. In questo momento sono convinto l'uomo più triste d'Italia. Neanche Paolo Di Germano qui alla Chiesina è triste come lui oggi. Chi è Paolo Di Germano? Paolo Di Germano è un altro personaggio notoriamente triste. Sì. Notoriamente Paolo triste. Di Germano detto lo Vabbè. Stregone. Anacleto, salutaci lo stregone, salutaci il direttore di banca che vedrai solo col binocolo, e soprattutto quando compri una volta una salsiccia da Mario, vai lì, comprala e intervistacelo in diretta, facci l'inviato dalla Chiesina, non è che noi ti sentiamo dalla panchina. Va bene Leonardo, tutto a posto? Sì, oggi non mi sono ancora svegliato completamente. Non ti sei svegliato, va bene. Allora, non però stasera ritorna il calcio. Cosa questa cosa non ti... Cioè, ritorna il calcio! C'è Juve-Milan, ritorno di Coppa Italia. Andata mamma mia ragazzi, andata 1-1, dobbiamo andare a vincere a Torino. Anzi, guarda Alpino, fammi una cortesia, guarda, chiamami Mario Adinolfi, che lo pigliamo un po' in giro, adesso che possiamo, prima di stasera, che poi ci si danno il solito legnato. A San Siro sentiamo. O a Torino? No, a Torino, sentiamo se Marione risponde, sentiamo un po'. Marione? Sì. Marione? Wow. Adinolfi? Wow! Grande! Sei pronto stasera? Ti diamo una mazzata! Ti diamo una mazzata! Ma di quelle proprio Cialanoglu, Rebic, Bonaventura. Pam, ma pam, è bellissimo! Pam. Ma in che serie giocano? Che hanno fatto durante il lockdown? I castelli di sabbia, che hanno fatto? E poi si diceva si tornerà migliori dopo il lockdown. Senti qua Mariona Di Nolfi. Ma voi tornerete migliori, sarete molto più divertenti stasera. Sarà una cosa da svellicarsi dalle risate quando vi prenderemo a pallonate, capito? Eccola. Molto migliori. L'arroganza dello Juventino. Diciamo così. Di commedia dell'arte, va bene, fa sempre simpatia, fa sempre gioia. Senti che bello, dai, adesso ti chiediamo un bel pronostico, registriamo tutto ovviamente Alpino, il pronostico di Mario Adinolfi per stasera, vai. Beh, mi sembra 3-0 per pietà, no, perché mi sembra andrà così, Ronaldo, Douglas Costa, va, perché... Sai che adesso serve la quota gol di colore, che è fondamentale, perché altrimenti non siamo nel clima del paese. Per cui già si vedere se si può giocare con le maglie bianche e nere, perché questa cosa di mettere il bianco... Non so se va benissimo. Voi effettivamente siete precisi, bianco e nero, ma siete, come dire, politica di corretta. Ma questa cosa di mettere il bianco, mi butta, se vuoi c'è un complotto. Ti faccio sentire l'inno più bello del mondo, l'inno del Milan. Avete un inno? Effettivamente. Sì, questo qua è molto... Ma non la sa nessuno sta cosa, come... Sì. Non la sai neanche tu, come la canti Milan, dice tante volte Milan, dice tante volte tante siamo volte la squadra Milan. Ma te ricordi, siamo la squadra più forte del mondo, è vero, abbiamo già preso per il culo questa cosa ai tempi, vabbè. Marione, che ci aspetta allora? Vabbè, torna al calcio, sei contento che il calcio senza pubblico, felice, guarda. Com'è? Il calcio senza pubblico, come? Calcio almeno, dai, stavamo in astinenza, insomma, non se ne poteva più. È bello. Non sei uno di quelli che si arrabbia perché ci sono i puristi che dicono ma questi aspettano il calcio, il mondo sta finendo. Io sono uno di questi, per cui io sono quello accusato dai puristi di solito, per cui sono uno di quelli là, sono quello... A cui piacciono i 22 in mutande e corrono dietro la palla che rotola, di quella roba lì sono io. Ma guarda che di recente anche Michele Serra aveva fatto una maca dicendo vabbè, voi vivete di Kierkegaard, io voglio vedere anche l'Inter nel caso di Michele Serra giocare a calcio. Ho detto Michele Serra, proprio il simbolo diciamo del popolo. No, perfino Michele Serra, Radical Chic se ce n'è uno, perfino lui. Ma basta dire interista, che tu capisci, insomma, a un certo tipo di modo di vivere. Proprio. Esatto, sì, anche perché aspettare per vedere giocare l'Inter è proprio... Volersi del male, lo so. Vabbè, 3-0 ha detto Leonardo. Vuoi dire qualcosa, Mario? Ronaldo, Douglas Costa per Douglas Costa per la quota, conformismo. Col di colore, perché sì, è necessario. Sì, hanno ritirato i cioccolatini Moretti dalla ormai siamo oltre Leonardo Manera. Il comico non serve più, ormai è la realtà. Comunque quello di Adinolfi è il classico pronostico iperottimista che poi è destinato a essere smentito, insomma. Di solito ovviamente serve per anche domani, secondo me così. Finirà 4-0, finirà serve 4-0. Per domani così, quando vinciamo 2-1 Milan mi chiama e mi dice che ho sbagliato il pronostico, capito? Vabbè. Marione, dai, un grande abbraccio, vedremo mi come va a finire. Il senso di Leonardo Manera, il milanista che sa. Ecco, il milanista che sa. Mi sì, piace. Sì. Ma guarda che anch'io so, no, però no, devo far finta tutti di illudi, no. Tutti illudi, io so che tu no. Sono in una chat milanista, una straordinaria chat Go Milan Go, c'è Pellegatti, ma ci sono Cosa c'è contro Carletto? Cosa c'è contro il mito Carletto Pellegatti? Perché ti vengo a cortiere di mazzate a Roma. Ricordo le telecronache più incredibili proprio. Ma io sono cresciuto con le radio cronache di Pellegatti, non ti permettere di toccare il mito di Carlo Pellegatti. Ma ci sono anche dei politici, guarda, non ti dico, ci sono delle persone insomma di altissimo livello, insomma, lascia c'è perdere. E se... c'è la e no, non c'è Emilio Fede. Non c'è Emilio Fede. Però c'è per esempio Orfini, ecco, ti dico questo. Basta, mi fermo. Orfini è un romano milanista, sì. Anche, c'è anche Fiano, Emanuele Fiano, c'è anche. Mi fermo lì. Comunque se io sono dei quelli non illusi, ci sono più illusi di me, stai tranquillo nella chat. Stasera ci divertiremo tanto, però lo sappiamo. Saluto anche il grande Andrea Vianello, anche lui nella chat, Andrea Vianello, anche grande Andrea, fratello rossonero. Romano rossonero. Vabbè, che devi fare. Ciao Marione, un abbraccio, buona serata, ciao. Traffico, buona serata, una presa in giro questa, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. C'è una chat straordinaria questo, Go Milan Go, li voglio salutare tutti, non posso salutare tutti, la grande Daniela Vergara, grandissima sorella rossonera, il grande Paolo Bertolucci, mito del tennis, ma poi ci sono Carlo Massarini, vabbè dai basta, mi fermo, magari non volevano neanche che lo dicessi, che gli dicessi i nomi, ma ce ne sono tanti che non posso citare tutti, ma li abbraccio tutti quanti. Non c'è Leonardo Manera, non vuole entrare. Sono in gli ottavi chat. Stasera? Sono gli ottavi di finale, sai che non ricordo più. Sono le semifinali. Cioè, se dovessimo vincere, non ricordo più nulla. Niente. Ho cancellato la vita precedente, non ricordo più niente. Meno male che si torna a viaggiare, però, perché so che è venuto a trovarti a casa il signor Vagone, Francesco Vagone. Eccolo qua. Cari amici di Radio 24, benvenuti nello spazio di Vagone Tour International, l'agenzia viaggi per i viaggiatori che non si accontentano delle solite mete. Per fortuna possiamo ricominciare a viaggiare e allora sono qui oggi per suggerirvi qualche destinazione da sogno. State pensando di fare un viaggio ai tropici o magari in Giappone o nel cuore dell'Africa? Sconsiglio, questa è l'estate giusta per scoprire le bellezze italiane. A partire da Beronzi Superiore, una graziosa località che si trova a 3 ore dal mare, 3 ore dalla montagna, 3 ore dal lago e soprattutto 3 ore dal primo supermercato. Beronzi Superiore è un piccolo gioiello della penisola, ma inspiegabilmente non è ancora stato invaso dal turismo di massa. Infatti è una delle poche destinazioni al mondo libere dal coronavirus, perché a Beronzi il coronavirus non è mai arrivato. In compenso, la settimana scorsa è passato da Beronzi un famoso latitante in fuga dalla polizia, poi però dopo un giorno a Beronzi ha preferito costituirsi. Allora, a Beronzi Superiore gusterete una vacanza piacevole, come quando tocchi lo sportello del forno bollente senza le presine. E allora perché non cogliere questa opportunità? Partiamo subito dai grandi vantaggi dedicati ai viaggiatori dei Vagone Tour. Chi sceglie di visitare Beronzi in questa stagione potrà approfittare della promozione Estate a Beronzi. È una simpatica gara da fare con gli amici. Chi sopravvive all'aperto più di 6 minuti senza mettere il repellente anti-zanzare ha subito 2 euro da spendere negli esercizi locali, un'opportunità davvero imperdibile. Ma ora, cari amici, è arrivato il momento di scoprire le straordinarie attrazioni di Beronzi Superiore. La prima attrazione da vedere a Beronzi è Graziano, l'uomo con pochissimi denti. Ogni giorno Graziano prova a staccare un pezzo di scotch senza usare le forbici, ma non ci è ancora riuscito. E lo scotch è sempre lì, che attende. In motorino Graziano non sorride mai, perché gli entrano tutti i moscerini e rischia di soffocare. Per la pulizia dei denti, Graziano spende 7 euro. Quando Graziano ha il mal di gola, il dottore può visitarlo senza fargli aprire la bocca. Ma a Beronzi Superiore le attrazioni sono moltissime. Per esempio l'uomo che quando va in giro ad attaccare il bottone non ti molla mai ed è soprannominato martello pneumatico. L'esperto di finanza con le borse sotto gli occhi e il ballerino di salsa che viene invitato a tutti i barbecue. Le sorprese a Beronzi non finiscono mai, allora prenotate subito la vostra vacanza con Vagone Tour International e come premio potrete anche ospitare per una settimana Graziano, l'uomo con pochissimi denti, a casa vostra per divertirvi insieme a lui. Quindi please visit Beronzi, the best destination in the world to visit now. In Italia. Ecco, abbiamo fatto anche lo spot inglese. Ma lei è veramente per essere un poliglotta. Internazionali, intercontinentali. Finalmente si torna a viaggiare e saremo anche presenti a Beronzi Superiore. Che bello. Buon che fine bello. Settimana a tutti. Mi dica. Buon fine settimana anche lei, Francesco Vagone. Ma non è che, siccome il nostro Leonardo Manera ha lanciato una rubrica, Leo risolve facile, non è che lei vuole magari fare lo spot di Manera come Francesco Vagone? No, no, no. Un momento che dovrei andare a prendere lo spot sul computer che ho scritto questa mattina, tra l'altro ho saputo che Manera l'ha scritto questa mattina, appena alzato, non ha avuto tempo di prepararsi. Forse per questo che è stata una giornata un pochino amara, un pochino triste questa, perché ha fatto questa bella rubrica che noi vorremmo rilanciare, Leo risolve facile. Voi mandate i vostri messaggi esistenziali di problemi al 349-238-6666, ma c'era uno spot per questo. Eccolo, chissà. Hai problemi di qualsiasi tipo e cerchi una soluzione definitiva? Allora Leo risolve facile, Leo risolve facile, la rubrica dove Leonardo Manera, grazie alla sua saggezza riconosciuta da tutti, in un attimo e in poche parole giuste indica la strada maestra di Pana, ogni matassa. Leo risolve facile e la vita ti sorride. E in premio una gita a Beronzi Superiore. No, se ti rivolgi a Leo risolve facile. No, no, non c'era nello spot questo, però Leo risolve facile torna con voi lunedì insieme a Leonardo Manera e chissà se Francesco Vagone. La ringraziamo, buon weekend, sia un vagone. Grazie. Buon weekend a tutti voi. Please visit buon Beronzi. Weekend. Va bene. Ciao. Nessuno, nessuno.